per adesso dico solo che è strano, non me l'aspettavo. Almeno quanto non te l'aspettavi, neanche tu. E lo so che aver ragione non serve a niente, mi basta dirti però che non è solo colpa mia. Il mondo ti volta le spalle, è solo che non sai qual è la cosa più giusta da fare. Io forse dovrei aspettare, e intanto che il tempo passa, credere che tu possa capire. E lo so che non mi capirai, lo vedo appena mi guardi, uno sguardo che punge. Già non pensare che il mondo ti volti le spalle, solo che non sai qual è la cosa più giusta da fare. Ma poi mi devi spiegare perché sei entrata adesso che è entrata anche lei. È vero, cos'è